Bibbia Martini, Atti degli Apostoli 18. Paolo in Corinto esercita il suo mestiere in casa di Aquila, e quantunque contro la predicazione di lui bestemmiassero i giudei, sente però in una visione che gran moltitudine di popolo ivi si convertirà. Dopo un anno e mezzo è accusato da giudei dinanzi a Gallione Proconsole, e molti giorni appresso va ad Efeso, e in varge paesi conferma i fratelli. Apollo con grande efficacia convince i giudei, facendo vedere con le scritture che Gesù il Cristo, benché solamente conoscesse il battesimo di Giovanni. Di poi partito da Atene andò a Corinto, e avendo trovato un certo giudeo, per nome Aquila, nativo di Ponto, il quale era venuto di fresco dall'Italia, e Priscilla sua moglie andò a star con essi. E perché aveva lo stesso mestiere, abitava in casa loro, e lavorava, e disputava nella sinagoga ogni sabato, interponendo il nome del Signore Gesù, e convinceva i giudei e i greci. Ma quando furono arrivati dalla Macedonia Sila e Timoteo, accudiva assiduamente Paolo alla parola, seguitando a protestare a giudei che Gesù era il Cristo. E contraddicendo quelli, e bestemmiando, scosse egli le sue vesti, e disse loro: «Il vostro sangue sul vostro capo. Io non ci ho colpa. D'ora in poi anderò ai gentili». E uscito di lì andò in casa d'uno chiamato Tito Giusto, e onorava Dio, la casa di cui era contigua alla sinagoga. E l'archisinagogo Crispo credette al Signore con tutta la sua famiglia. E molti dei Corinti ascoltando credevano, ed erano battezzati. E il Signore disse la notte a Paolo in una visione: «Non temere, ma parla, e non tacere, conciosia che io son teco, e nessuno si avanzerà a farti male, perché io ho un gran popolo in questa città». E si fermò un anno, e sei mesi, insegnando tra loro la parola di Dio. Essendo poi Gallione proconsole della Caia, si levarono su tutti d'accordo i giudei contro Paolo, e lo menarono al tribunale, dicendo: «Costui persuade alla gente di adorare Dio contro il tenor della legge». E in quel che Paolo cominciava ad aprir bocca disse Gallione a giudei: «Se veramente si trattasse di qualche ingiustizia, o di delitto grave, io, o giudei, con ragione vi sopporterei. Ma se sono questioni di parole, e di nomi, e intorno alla vostra legge, pensateci voi, io non voglio esser giudice di tali cose». E li mandò via dal tribunale. Ma quelli avendo tutti preso sostene principe della sinagoga, lo battevano dinanzi al tribunale. E Gallione non si prendeva fastidio di niuna di queste cose. E Paolo fermatosi ancora per molti giorni, detto addio ai fratelli, navigò verso la Siria, tosatosi egli il capo in Cencrea, perché aveva voto. E arrivò ad Efeso e quivi gli lasciò. Ed egli entrato nella sinagoga disputava con i giudei. E pregandolo questi, che si fermasse più lungamente con loro, non condiscese, ma licenziatosi, e dicendo: «Un'altra volta a Dio piacendo tornerò da voi», fece vela da Eteso. E sbarcato a Cesarea, si portò a salutare la chiesa, e andò ad Antiochia. E ivi fermatosi per alquanto tempo, ne partì scorrendo per ordine il paese della Galazia, e la Frigia, confermando tutti i discepoli. Ma un certo giudeo, per nome Apollo, nativo di Alessandria, uomo eloquente, e potente nelle scritture, giunse ad Efeso. Questi aveva appreso la via del Signore, e fervoroso di spirito parlava, e insegnava esattamente le cose di Gesù, conoscendo solo il battesimo di Giovanni. Questi adunque cominciò a parlare liberamente nella sinagoga. E Priscilla e Aquila, avendolo ascoltato, lo preser seco, e gli esposero più minutamente la via del Signore. E avendo egli volontà di andare nella Caia, i fratelli avendonelo stimolato, scrissero ai discepoli di riceverlo. Ed egli essendovi arrivato, fu di molto vantaggio a quelli che avevan creduto. Impero che con gran forza convinceva pubblicamente i giudei, mostrando con le scritture Gesù essere il Cristo. Note 18,1. a Corinto, capitale dell'Acaia, nobilissima città, e ricca pei due porti, il Lecheo e Cencrea, i quali le procuravano gran commercio. Era piena di filosofi e di oratori, ma di cattivo nome riguardo ai costumi sommamente corrotti dei suoi cittadini. 18,2 Nativo di Ponto, e ci provincia pienissima di giudei. Di Aquila e di Priscilla fa onoratissima menzione l'apostolo, Rom. 16.4 Essendo che Claudio avea ordinato, questo imperatore nei principi del suo governo era stato favorevole a giudei, permettendo loro di vivere secondo i loro costumi, ma 8 anni dopo fece l'editto, di cui si parla in questo luogo. Svetonio dice, che Claudio li cacciò di Roma, perché a istigazione di Cristo, ossia di Cristo, come altri leggono, muovevano continui tumulti. L'odio dei giudei contro il nome cristiano può aver dato occasione anche in Roma a più di una di quelle violenze, che accadevano sovente negli altri luoghi, come veggiamo da questa storia. E siccome i romani poco informati delle cose dei giudei facevano di questi, e dei cristiani un solo corpo, Svetonio avendo udito dire, che la cagione di tali discordie veniva dalla dottrina di Cristo abbracciata dagli uni, e rigettata dagli altri, si immaginò, che Cristo fosse un dottore ancor vivente, e che, fosse scisma di due fazioni i giudei quello che era tra i giudei, e i cristiani. Del rimanente l'editto di Claudio non ebbe lunga vita, come vedremo andando avanti, e forse per questo non ne fa menzione Giuseppe Ebreo. 18,3 E perché avea lo stesso mestiere? Lavorava e il mestiere era di fare delle tende per i soldati, e queste erano di pelle. Questa regola di guadagnarsi il vitto con le proprie mani se l'era prescritta l'apostolo fino dal principio della sua predicazione. Vedi Cor 4, 12, I Des, 2, 9, 2, Des, 3, 8. E osservano gli eruditi, essere stati soliti anche i primi dottori ebrei di imparare un mestiere, onde sostentare in certe occasioni la vita senza essere d'aggravio altrui. Egli non ignorava che Gesù Cristo permetteva a suoi ministri di ricevere il bisognevole pel proprio mantenimento da coloro a quali predicavano la parola. Ma sapeva con somma discrezione e sapienza adattarsi a luoghi e alle circostanze, e conservando l'onor del Vangelo far conoscere a tutti che ciò che egli cercava erano le anime e non il vile guadagno. 18,5 Ma quando furono arrivati dalla Macedonia e dove erano stati da lui mandati per la seconda volta da Atene. Vedi Des 3, I 2, 3, 4, 18,6 Il vostro sangue sul vostro capo, e ci col nome di sangue si intende qui l'esterminio, la rovina, la distruzione degli ebrei, della quale dice l'Apostolo, che sono essi stessi la cagione. E i rei. 18,7 E uscito di Liechti, dalla casa di Aquila, dove fino a quell'ora aveva abitato, andò a stare in casa di Tito Proselito, la qual casa era contigua alla sinagoga, mostrando così agli ebrei, che quanto a sé egli era sempre vicino ad essi col cuore, e col desiderio di illuminarli, tentando insieme di eccitare emulazione tra essi, e i gentili, i quali accorrevano a lui. 18,8 E molti dei Corinti e tra questi fa menzione l'apostolo di Gaio e di Stefana, i Cori 14, 15, 16. Della stessa città erano anche probabilmente Sostene, i Cor 1 i e De Peneto, Rom 16, 5, 18,12 Essendo poi Gallione proconsole l'Acaia era provincia consolare, e questo Gallione, il quale la governava, era fratello del filosofo Seneca lodato da questo per la sua dolcezza, affabilità e schiettezza. 18,13 Contro il tenor della legge. Vale a dire della legge di Mosè, che così l'intese Gallione, V. 15, e non conc vogliono alcuni della legge romana. 18,15. Ma se sono questioni di parole, e di nomi, e intorno e... Se si tratta solo di sapere se Gesù sia il Cristo, o il Messia, o se vada adorato Dio in un modo, o in un altro. Gallione Gentile tratta con disprezzo questa sorta di controversie, delle quali non si cura di informarsi, persuadendosi essere dispute di sole parole e non di cose gravissime, come alpure erano. 18,17. Ma quegli avendo tutti preso sostene principe della sinagoga, e non è necessario di dire, né che questo sostene fosse succeduto a Crispo nel governo della sinagoga, né che egli fosse capo di un'altra sinagoga, che alcuni si immaginano essere stata in Corinto. Egli non era archisinagogo, ma uno dei principali della sinagoga affezionato all'apostolo come da lui convertito, e sopra di lui vollero sfogare in parte gli ebrei la loro rabbia. Non avendo ardire di tentar nulla contro esse Paolo, persuasi che egli era protetto dal proconsole, il quale lo avea rimandato libero, e in certo modo assoluto. Vedi il Grisostomo, Om. 39, in Act. 18,18, fermatosi ancora per molti giorni. Oltre ai 18 mesi, alla fine dei quali successe quello che è raccontato di sopra. Tosatosi egli il capo in Cencrea, perché aveva voto. Esse Paolo, il quale non faceva difficoltà di farsi giudeo co giudei aveva fatto un voto simile a quel de Nazarei, il quale era di astenersi per un dato tempo dal vino, e da ogni liquore, e di lasciar crescere i capelli, i quali il Nazareo si tagliava poi alla porta del tabernacolo, offerendo certi sacrifici. Esse Paolo, trovandosi al termine del suo voto lungi dalla Palestina, si tosò il capo nel porto di Cenarea prima di imbarcarsi, riservandosi di adempire il resto in Gerusalemme secondo l'uso. 18,19. E arrivò ad Efeso, e quivi li lasciò. Ciò è detto per anticipazione, perché non li lasciò nell'arrivare, ma solo quando si partì da quella città, metropoli dell'Asia Minore. 18,22. E sbarcato a Cesarea e si può intendere quella detta Cesarea di Stratone. Da Cesarea, dice il Grisostomo, che Paolo andò ad Antiochia della Siria. Onde secondo lui non andò questa volta Paolo a Gerusalemme, e seguitando la Vulgata, si può dire che o egli non fece quel viaggio, o chiesse. Luca lo ha assolutamente passato sotto silenzio, imperocché la Chiesa, di cui qui si parla, non pare che altra possa essere, che quella di Cesarea, e quella parola rotta ascese, sulla quale alcuni si fondano per dire, che va sottinteso a Gerusalemme, non porge se non una meschinissima congettura, la quale sparisce, e va in fumo, spiegando, come abbiamo fatto, si portò conforme in molti altri luoghi significa la voce ascendere. Quanto al testo greco dicendo esse Paolo nel V. 21. Secondo il detto testo, bisogna che io faccia la festa, che è imminente in Gerusalemme, converrà dire che esse Luca ha omesso di poi di parlare di questa andata, come già bastantemente ivi accennata, o che esse Paolo ebbe volontà e desiderio di andarvi, ma che Dio non gliel permise per qualche ragione concernente gli interessi della sua chiesa. 18,23. E ivi fermatosi eci egli vi aveva già dei discepoli. Vedi Act. 16. 6. 18,25. Conoscendo solo il battesimo di Giovanni. Egli era semplice catecumeno, come quelli, dei quali si parla nel capo 19. I 18,26, Priscilla e Aquila. Lo preser seco, ecce, la lunga familiarità che questi avevano avuto con esse Paolo, attissimi li rendeva assi alto magistero. Sono da ammirarsi le disposizioni di Dio non solo nell'infondere tanta virtù in un catecumeno, ma di più in servirsi anche di una donna a perfezionare questo catecumeno nella cognizione di Gesù Cristo, e degli altissimi misteri della sua Chiesa. Di Apollo si parla, I Cor 3, 9, 3, 7.